Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Ha fatto notizia a fine luglio la nascita di una commissione parlamentare il cui compito è mettere a punto un documento che permetta di definire un preciso status giuridico per i robot. Il lavoro ha preso il via da un precedente lavoro elaborato in questo caso da un team di addetti ai lavori che si chiamava RoboLaw e mira a definire una cornice giuridica, si parla di personalità elettronica, all'interno della quale l'ingresso massiccio dei robot nella vita di tutti i giorni, scenario che ormai si può considerare imminente, possa trovare un quadro normativo chiaro dove non ci siano dubbi, per esempio su quali debbano essere le regole a cui ci si deve attenere per progettare e commercializzare il robot e anche su quale sia insomma la catena di responsabilità in caso di eventuali danni. Di tutto questo parliamo con Andrea Bertolini, esperto di diritto privato e quindi anche di diritto robotico, diciamo così, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buonasera Bertolini. Buonasera. Senta, allora, come tutte le macchine, anche i robot devono attenersi a delle norme di sicurezza, quindi niente bordi taglienti, fili scoperti o cose del genere. Questo è chiaro. Che cos'altro serve però? Beh, ci sono innanzitutto alcuni problemi sono gli stessi, però possono richiedere delle soluzioni innovative. Gli standard di sicurezza saranno necessari anche per i robot, però dovranno prendere in considerazione alcune peculiarità, ad esempio la possibilità per il robot di operare indipendentemente da un controllo diretto di un essere umano. Questa è una grande differenza, è l'elemento per esempio che qualifica i veicoli autonomi. Però ci sono anche altri aspetti, ad esempio l'importanza del rapporto tra l'essere umano e la macchina. L'essere umano potrebbe sviluppare un'affezione, un legame diciamo emotivo nei confronti della macchina, perché la macchina potrebbe essere progettata per suscitare questo tipo di legame emotivo. Magari anche in modo un po' ingannevole, c'è esatto, questo rischio. Pensiamo anche alla foca robotica Paro, che viene utilizzata con i malati di Alzheimer, e questa foca diciamo ha come proprio funzione quella di sviluppare un attaccamento emotivo della persona malata, della persona anziana, che in questo modo ne trova un giovamento. Però, Senta, proviamo a parlare proprio di qualche cosa, di qualche situazione molto concreta dove si capisce che c'è un tema di normativa da regolare. Diceva delle auto, per esempio c'è stato il primo incidente mortale dove era coinvolta una Tesla in questo caso, che stava però andando col pilota automatico, diciamo. Qui qual è il problema? Innanzitutto occorre capire quali fra i vari soggetti coinvolti possono essere responsabili. Da un lato potrebbe essere il produttore, perché uno potrebbe argomentare che la macchina era in modalità automatica e quindi la responsabilità non poteva che essere del produttore. Però si potrebbe anche argomentare che era una scelta dell'utilizzatore di mandare la macchina in quelle condizioni in modo autonomo. Quindi, e se ci fosse un noleggio di mezzo, potrebbe esserci anche il gestore del servizio tra i vari possibili responsabili. Esatto. Di questa roba. Questo crea un problema rilevantissimo per le compagnie di assicurazione, che non sanno chi devono assicurare e per quale tipo di danno, per quale tipo di evento dannoso, e questo quindi porterà anche una modifica nel mercato assicurativo sicuramente. Ecco, un altro caso concreto è il robot che va a fare la spesa, vero? Certo, si può ipotizzare che un robot companion pensato per vivere con noi tutti i giorni, oltre a rassettare casa, possa essere utilizzato per andare a fare la spesa. O magari in farmacia, no? Pensiamo all'anziano. Comunque stipulare un qualsiasi contratto di compravendita. A tal fine è necessario che quel robot possa o avere un patrimonio suo da poter utilizzare, o comunque poter essere considerato un rappresentante dell'essere umano e quindi stipulare validamente quel contratto. Quindi c'è anche un problema di identificazione del robot e di imputazione di un atto giuridico certo, o al robot o all'essere umano che è dietro al robot. Un altro caso che sembra interessante, perché poi è proprio vedendo questi casi concreti che si capisce il problema, è quello dell'accessibilità al codice sorgente. Qui siamo un po' in una situazione da CSI per certi versi, no? Da perizia psichiatrica forse. Certo, è importantissimo. Pensiamo ad esempio a un robot che già oggi esiste, il robot Da Vinci, che viene utilizzato nelle, per svolgere operazioni più importante robot chirurgico, certo, al mondo. Sì. Questo robot produce dati relativi all'operazione, relativi ai comandi che il medico impartisce in ogni momento, al comportamento della macchina, e queste informazioni sono preziosissime nel caso di un incidente o di un'operazione che non abbia l'esito desiderato. E occorre mettere il paziente, in questo caso, o anche l'ospedale, in condizione di accedere a questa informazione, che a oggi però rimane di proprietà e riservata del produttore. Perché non esistono regole che lo obblighino a fare diversamente. Esatto, quindi. Esatto. E quindi, insomma, diciamo che in tutta una serie di situazioni, per esempio in tribunale, potrebbe essere necessario, così come si fa appunto la perizia psichiatrica, no? Ad una persona andare a vedere se quel software era... aveva qualcosa che non andava, no? Esatto. O comunque come ha reagito a determinati input che magari l'essere umano che lo stava utilizzando ha dato. Allora ci fermiamo qui, ma abbiamo ancora un po' di cose da raccontare, quindi se a lei va bene direi che ci sentiamo domani, andiamo avanti a parlare di come creare un profilo giuridico per il robot di domani. Grazie per intanto Bertolini. Grazie a voi, grazie a voi.